Good morning, Radio Kabul! Salut! Nieruchimi Respublik Svobodny Splatila navieki Velika Jaro Milan, bolscevico! Sostanni vole naroda! Milan, non ho capito se ti chiami Alino o Alenin. Comunista bolscevico! Milan Setung! Setung! Setung! Radio Kabul! Družbi naroda! Stalin, Lenin, Milan. Vai con l'armata rossa! Piegati al sistema che non siete altro! Uno, nessuno, 100 Milan. Uno, nessuno, 100 Milan. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera. Eccoci cari ascoltatori, sono le 9 minuti per una nuova settimana di Uno Nessuno 100 Milan. Devo dire che anche quest'oggi Manera non ci sarà, insomma la febbre ha colpito, quindi non ha fatto neanche lo spettacolo sabato, ma insomma auguri di pronta guarigione, da domani tornerà con noi, lentopedamente ci sarà. Però è qui con noi invece, è tornato Mario Calabresi, che saluto con grande piacere. Mario, buongiorno. Buongiorno, ciao Alessandro. Ci siamo, mi sa, a raccontare tante cose oggi, ovviamente di politica ancora. Continuiamo, e da questa mattina che Radio 24 vi tiene compagnia con tutti i dati per le regionali dell'Emilia Romagna e della Calabria, siamo qui. Voi chiamateci all'800 24 0024 per le vostre considerazioni politiche. E scriveteci al 349-238-6666. Saluto Filippo Aureggi in regia. Se c'è lui, speriamo che vada tutto bene. Saluto Lorenzo Nespoli. Ma l'Alpino è malato insieme a Manera? Non lo so, l'Alpino... Ah, è Alpino anche Filippo Aureggi, attenzione, si offende. No, qua di Alpino con la A maiuscola c'è solo Peter Bescapè. Tu adesso sei un... almeno devi... Sì, ma poi... Ma poi che Alpino tu, dai Filippo. Comunque non lo so, adesso andiamo a recuperarlo, Peter. Insieme a Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi e Lorenzo Nespoli ci siamo. Caro Mario, vogliamo partire al solito? Vogliamo partire al solito? Ma sì, dai, ci vuole. Enthusiasm, anche se... enthusiasm about the future. Oggi è meno zoppini. Mi hanno scritto molto indignati dicendo che io mando sempre questo conte zoppicante nell'inglese come a mandare un messaggio subliminale, no? Ma in realtà è una piccola presigla di presa in giro. In realtà lo vedi adesso meno zoppicante dopo le lezioni di ieri. Diciamo così, sollevato sicuramente. Sollevato. Però di politica parliamo molto. Prima della politica, vogliamo anche noi ricordare un gigante dello sport che ieri è tragicamente scomparso, Kobe Bryant, che tra l'altro non so se molti lo sanno, ma è proprio cresciuto in Italia, tanto che parlava uno stupendo italiano. Vogliamo sentirlo anche quando parlò a Reggio Emilia, credo. Cos'è che ti lega così tanto a Reggio? Sono cresciuto qua, andavo in giro in bicicletta qua, tutti i miei amici, tantissimi ricordi, speciale, è differente perché quando siamo arrivati in macchina con tutti i miei compagni di Nike, gli stavo dicendo, guarda, hai mai pensato che uno dei migliori giocatori dell'NBA è cresciuto qua, non puoi essere più lontano da Los Angeles di un giocatore di pallacanestro? Vuol dire che ogni sogno è possibile. Caro Mario, si pensa sempre che queste persone siano in qualche modo immortali, no? Perché fanno la storia dello sport. Poi, insomma, è morto. Aveva è 41 anni. Sì, è morta la figlia, sì. Un'altra figlia di un amico con cui stavano andando in elicottero, no? Kobe Bryant, cosa vuol dire quando scompaiono giocatori del genere? Questo. Lui, soprattutto per i Lakers, per Los Angeles, resterà a questo punto, oltretutto, morendo giovane, scomparendo così, diventerà il giocatore della loro storia. Lui è stato uno, un totale innovatore, uno che ha fatto diverso. Aveva incrociato l'Europa, l'Italia, dove è cresciuto, con gli Stati Uniti. Ed è uno dei primi, e fece scalpore, che saltò il college. Lui è passato direttamente dalle scuole superiori all'NBA. Senza andare... Allora i giornali scrissero che era un grande errore, i giornali americani. Mm-hmm. Scrissero che era un grande errore che questo fenomeno saltasse il pezzo intermedio, ma non studia, non fa un passo alla volta. Il basket del college è quasi più seguito. E fece molto discutere questa scelta di passare all'NBA. E inizialmente l'NBA era spaesato. Ed è stato il più giovane ad esordire nell'NBA, il più giovane ad andare a giocare un All-Star Game. E la sua forza però che cos'era? Che probabilmente anche la complessità della sua vita, avere viaggiato da bambino, aver visto molti posti diversi, che lui immaginava sempre il gioco 2-3 passaggi. Lui diceva ai compagni: muoviti di lì che il difensore andrà da quella parte e io entro lì. E poi accadeva, gli altri dicevano: come fai a saperlo? E lui diceva: io vedo il gioco. Aveva una visione, vedeva il gioco prima. Sì. Poi spesso si dice, si leggo sulla Gazzetta dello Sport, forse il giocatore più grande di tutti i tempi, forse in realtà è stato Michael Jordan, anche secondo me è stato Michael Jordan. Dire, è chiaro che adesso nel momento anche del lutto ci sta tutto. Kobe Bryant, con questo legame anche con l'Italia, non hai sentito come parlava l'italiano? Sì, benissimo, benissimo. Roba incredibile. È così, è un fenomeno che se ne va, però... Caro Mario, qui dobbiamo parlare delle cose terrene, di quello che è successo alle regionali, degli sviluppi ora sulle questioni nazionali. Lo sapete ormai, insomma, Bonaccini ha vinto in Emilia-Romagna, Iole Santelli, centrodestra, ha vinto in Calabria. Allora, visto che Mario Calabrese ha scritto questo libro di successo, La mattina dopo, no? Ti concentri su quello che si può provare il giorno dopo una battuta d'arresto, una sconfitta. Io però ti voglio chiedere La mattina dopo anche di chi ha vinto. Salvini, La mattina dopo di Salvini, oggi come sarà? Secondo me svuotato, sfinito. Perché ha fatto stanco anche. L'altro giorno mi sono preso la briga di contare i tweet, viaggiava a 60-70 tweet al giorno, uno ogni 13-14 minuti. Ma li scrive lui poi, secondo te? No, però è dietro a ogni cosa, in ogni tweet si vedeva qualcosa che stava facendo, c'era una presa di posizione. Diciamo che se uno guardava televisione e social e anche stava sul territorio dell'Emilia, Salvini era ovunque, aveva riempito ogni spazio, ogni angolo, sui social poi era incredibile. Ha fatto veramente una campagna elettorale che io credo che non si fosse mai vista per intensità. Sì. Per cui credo che oggi sia svuotato e sfinito. E la mattina dopo di Bonaccini? Beh, Bonaccini, come dire, solo contro quella macchina, cioè secondo me non ha neanche dormito, tanta adrenalina addosso, adrenalinica, ecco. Solo perché dice non aveva dietro il partito, che per qualcuno è stato meglio, lui forse poi sì. dice forse non è sì. vero. Beh, diciamo c'era. Così, ha fatto da solo. Io credo, guarda, una cosa che mi ha colpito di Bonaccini è stata, che è stato un passaggio saggio. Nel momento in cui Mihajlovic, l'allenatore del Bologna, ha fatto il suo endorsement, si è schierato con Salvini e la Borgonzoni, c'è stato un sacco di gente che ha fatto dei messaggi schifosi contro di lui, che tra l'altro sta combattendo contro una malattia, una leucemia. E in questa polemica che si è accesa pro-contro, Bonaccini, che poteva essere infastidito, irritato, in fin dei conti l'allenatore del Bologna, ha detto invece lui è un grande, sì. Ma la cosa più importante, lui sceglie chi vuole, io rispetto la sua scelta, ma la cosa che gli auguro è di vincere la battaglia più importante, quella contro la malattia. E da questo punto di vista, ecco, diciamo che quello in un clima infuocato ha mostrato di saper fare anche... togliere qualcosa. Sì, sì, no, su quel passaggio è stato davvero un signore rispetto all'odio che c'è stato e l'inciviltà che c'è stata soprattutto sui social. Ti chiedo anche la mattina dopo le altre due persone, insomma, le sardine, ecco, comuniamole così. La mattina dopo delle sardine, rinfrescati da questo bagno vicino al Papete. Secondo me, la mattina dopo le sardine si svegliano con un grande punto di domanda. E ora? E ora che fanno? Che fanno? Adesso che Salvini non è più lì a imperversare nelle loro piazze, cosa fanno? Perché sono nati così. Io non ho così, una risposta. No, no, certo. Io ho lo stesso punto di forse domanda. Forse neanche loro si devono vedere a Scampia, credo, per un grande avvenimento. Inizialmente hanno detto singolare questa cosa, scompariremo dalle TV e dalle, insomma, dai mezzi di informazione perché non è il nostro ruolo, hanno detto nella notte, poi in realtà ci vedremo, beh, io non ci credo molto, nel senso che poi qualcosa succede. Però gli farebbe anche bene, nel senso che questi ragazzi che hanno avuto un'idea di far vedere che esisteva anche sulle piazze un'altra Emilia, un altro modo di pensare, che le piazze non erano soltanto di Salvini, poi però in televisione hanno sempre avuto a un certo punto un deficit e poi per fare cosa? Di direzione, sì. E quindi forse se stanno sul territorio e costruiscono qualcosa è più sano che andare in televisione. Infine ti chiedo per il momento la mattina dopo, guarda, di Beppe Grillo, così metto lui come emblema del Movimento 5 Stelle, perché insomma il Movimento 5 Stelle. Ma io credo che sia Beppe Grillo che Di Maio avevano capito prima. Cioè quella di Di Maio è una mattina di sollievo perché si è dimesso la settimana scorsa e non si è dovuto dimettere questa mattina. Adesso sarebbe sotto processo, uno gli dice prendevi 40, hai preso 5, vabbè, ho capito, te ne vai. Invece lui se n'è andato non prima. Non è che può dire, quindi sono andato via 3 giorni fa. Ho capito, sì, ma hai presente, poi c'è il processo e ti devi dimettere. Sì. Invece adesso lui non si deve dimettere, quindi secondo me con sollievo. E Beppe Grillo... ma che mattina dopo avrà avuto Beppe Grillo? È strano, è difficile. Non so, è anche una situazione un po' particolare perché pare che abbia annullato tutto il suo tour teatrale dicendo che si deve operare, è un'operazione, quindi magari avrà altri pensieri in questo momento, però certamente Beppe Grillo c'ha una fortuna di abitare in un posto meraviglioso che è Sant'Ilario sopra Nervi in Liguria, quindi comunque sia lui la mattina vince sempre perché apre la finestra e vede guarda, il mare. Guarda fuori. Allora, insieme a Mario Calabresi siamo qui a parlare e a dare alcune considerazioni di date anche al primo ospite, che è il professor Gianfranco Pasquino, che saluto. Buongiorno professor Pasquino. Buongiorno a voi. Politologo, buongiorno. Docente emerito in scienza politica all'Università di Bologna, insomma Bologna la conosce alla perfezione, ha anche scritto un libro che esce proprio in questi giorni per UTET, si intitola Minima politica, e poi magari ci dirà qualcosa su che politica, che fase della politica viviamo oggi. Però Pasquino, molti dicono Bonaccini ha vinto senza il PD eccetera. Prima considerazione, in Emilia Romagna il PD è al 34,69%, la Lega è al 31,96%, diciamo al 32%, 2 punti percentuali. Questo che considerazione le fa fare, professor Pasquino? Ma che Bonaccini ha vinto anche grazie al PD, nessuno in Emilia Romagna pensava per un attimo che Bonaccini fosse il candidato di se stesso e non invece anche di un partito. Certo, ha un seguito che va oltre quello del PD. Seconda considerazione, che il PD ha risuperato la Lega, questo è un dato molto importante perché la Lega nelle elezioni europee era diventato il primo partito dell'Emilia Romagna. E in terzo luogo che quella percentuale è un'ottima percentuale, che ha messo insieme anche quelle che chiamiamo sparse membri della sinistra, che peraltro sono poche, dal punto, poche numericamente e non fortissime percentualmente, e quindi il PD sa che se vuole crescere è opportuno anche che cerchi intorno a se stesso, che sia un partito più aperto. In Emilia Romagna la lezione l'avevano imparata e l'hanno messa a buon frutto. E i 2 punti percentuali solamente sotto della Lega, che considerazione le fanno fare? Cioè è stata una sconfitta, come dice Salvini, o comunque per la prima volta dopo 70 anni la regione è stata molto contesa? Dunque, che la regione fosse contendibile era apparso abbastanza evidente, e naturalmente Salvini ha molto investito in questo. Io credo che debba sapere che ha perso, cioè certamente è stata una sconfitta di Salvini, la candidata era sempre, come hanno notato tutti, due passi indietro, ma non era quello, non era un problema, come dire, semplicemente visivo, era la candidata aveva pochissimo da dire sull'Emilia Romagna e quindi non c'è stata una vera e propria campagna sull'Emilia Romagna, tranne su alcuni scandali, li chiamerò così, la sarebbe complicato definire il tutto, però Salvini ha fatto una campagna nazionale, cioè voleva fare cadere il governo attraverso una vittoria in Emilia Romagna e da questo punto di vista ha perso seccamente. Ecco, professore, buongiorno, sono Mario Calabresi. Buongiorno. Le volevo chiedere questo. Secondo lei a questo punto il governo è più solido oppure la sconfitta dei 5 Stelle così forte e anche la non, diciamo così, un PD più forte è anche quindi un problema per Renzi, per la sua, tutto questo imprimerà invece delle tensioni, cosa pensa? Io ho sempre pensato che il governo non fosse molto forte in partenza e che si tenga insieme grazie al fatto che c'è una maggioranza numerica in Parlamento, che è la maggioranza conquistata dalle 5 Stelle nel marzo del 2018 e dal PD. Quella maggioranza numerica deve dimostrarsi operativa. Il Presidente della Repubblica non gradisce qualcuno che si limita a galleggiare e quindi debbono fare delle cose. Però sanno anche, in particolare le 5 Stelle, che un qualsiasi ritorno anticipato alle urne sarebbe un disastro probabilmente per le 5 Stelle e probabilmente una sconfitta per il PD. Cioè è vero quello che dice la destra, che c'è una maggioranza diversa nel Paese, però non è che perché c'è una maggioranza diversa bisogna necessariamente andare a votare. Si va a votare alla data prestabilita, a meno di una crisi. Il governo, secondo me, si è leggermente rafforzato, perché i 5 Stelle sanno che questo è il momento peggiore per loro e quindi non possono fare vacillare il governo. Anzi, potrebbe fare una battuta che hanno un punto per Stella. Debbono insistere. Il salace calabresi. Perché non gli piacciono le 5 Stelle. No, non lo so, è stato salace. Che è legittimo, è legittimo non gradire alcuni aspetti delle 5 Stelle, e le quali però hanno dei punti programmatici che possono ancora attuare con il PD. E d'altro canto penso che l'obiettivo di fondo sia arrivare almeno al gennaio del 2022 a eleggere il prossimo Presidente della Repubblica. Ma chissà, quindi, secondo chissà me il governo è leggermente rafforzato. Chissà se in questo momento Salvini ha davvero la forza di pensare agli ultimi anche mesi. Vi ricordate, al Papete ha giocato tutto, alla fine si è fatto un governo anche per estrometterlo, ma lui probabilmente aveva nell'animo l'idea di dire: ma tanto implodono, e lo diceva, implodono, arrivo alle regionali e imploderanno. Salvini è il contrario di come si faceva politica un tempo, che era una politica fatta di cautele, di calcolo, di micro spostamenti. Lui gioca tutto per grandi scommesse. Tutto. E le ultime due scommesse sono andate male, ma io credo però bisogna stare attenti, perché prendere anche il PD deve stare attento a non scambiare il voto in Emilia, a non confonderlo con un voto nazionale, certo. Perché se uno guarda invece come sono andate le cose in Piemonte o come sono i voti nella Lombardia, fuori da Milano, in Veneto, nel resto d'Italia, le regionali precedenti, oggi Salvini è nettamente il primo partito in Italia. Il voto nazionale adesso chissà non ci sarà probabilmente. Quello che è successo, professore, quello che sta succedendo è che 2 anni fa alle politiche si parlava di un, sostanzialmente c'erano i due grandi partiti, erano i 5 Stelle, la Lega che si stava mangiando tutto il campo del centrodestra e il PD sembrava così in cerca di una dove mettersi. Adesso sembra quasi rinato un bipolarismo PD centrodestra a guida salviniana. Il PD però ha bisogno di un alleato, per di più quando sento parlare di riforma elettorale, incidentalmente uno dei capitoli del mio libro è proprio sulle leggi elettorali. Una legge elettorale proporzionale non è che frammenta maggiormente il sistema partitico, perché bisogna metterci comunque una soglia, però suggerisce che nessuno riuscirà mai ad avere da solo la maggioranza assoluta e quindi bisogna fare delle coalizioni. e quindi il PD in qualche modo ha bisogno delle 5 Stelle, ha bisogno delle 5 Stelle che cambino naturalmente, che però si mantengano su un livello di voti tale da consentire poi di avere una maggioranza PD 5 Stelle. Una vera e propria, come dire, aggregazione sarebbe secondo me un fallimentare, perché produrrebbe un deflusso di iscritti e voti sulla, da qualche parte del Movimento 5 Stelle e una parte del PD che non gradisce un'alleanza cosiddetta organica. Però certo il PD deve ripensare la sua politica delle alleanze e deve evitare che ci sia qualcuno che fa il bullo uscendo e facendo poi quello che io chiamo il piccolo sabotaggio del governo. Ma tra l'altro lei, professor Pasquino, appunto vede un po' nel futuro della politica che sarà in questo libro Minima Politica, 6 lezioni di democrazia è il sottotitolo, perché lei appunto parla di meccanismi elettorali, ma anche di governabilità, del ruolo delle istituzioni come Presidente della Repubblica, di tutto questo tema del sovranismo, gli eurocrati. Ecco, con una premessa però, mentre dà dei saggi consigli, dice la premessa è che in realtà c'è un'ignoranza diffusa, un'ignoranza di base, un'irruenza nel guardare e compulsare i sondaggi. Allora come si mettono insieme, come dire, delle analisi così attente con la situazione che in realtà è un po' sconfortante da questo punto di vista? Si mettono insieme sperando che voi giornalisti autorevoli incominciate a cambiare un po' il lessico e anche il contenuto di alcune affermazioni. Per esempio, io ritengo che dovreste smetterla tutti di parlare di legge elettorale usando il latino, che non c'entra nulla. Quando Sartori lo usò era una presa in giro, dopodiché è diventata una roba da bar. Parlare del sistema elettorale proposto come Germanicum, che non ha quasi nulla a che vedere con il sistema elettorale proporzionale tedesco, è un errore, ma soprattutto non comunica nessuna informazione utile. Dire ad esempio che bisogna avere governabilità senza credere che governabilità è qualcosa che attiene con la capacità degli uomini e delle donne di governare. Non è che se uno riduce la rappresentatività o rappresentanza automaticamente aumenta la governabilità. Anche questa è una storia che è meglio non raccontare. Parlare di Presidente della Repubblica come arbitri, cioè che stanno lì, guardano i giocatori e di tanto in tanto fischiano, è sbagliato. Il Presidente della Repubblica ha un ruolo importante, tanto per incominciare rappresenta la nazione. E inoltre ha un ruolo importante in quasi tutti i passaggi. È quello che nomina il Presidente del Consiglio, è quello che decide se sciogliere oppure no. Anzi, il Presidente della Repubblica recenti hanno deciso di non sciogliere, di cercare di mantenere il Parlamento in vita nella misura in cui fosse in grado di funzionare. Cioè ci sono tutta una serie di passaggi sui quali, se voi comunicatori importanti e capaci riuscite a rimettere un po' d'ordine, forse anche i cittadini ne capiscono di più. Vabbè, intanto ci pensa lei col suo libro, la ringraziamo professor Pasquino. No, se volete comprarlo lo trovate in libreria per UTET, Minima Politica di Gianfranco Pasquino, che ringraziamo per essere grazie stato con noi. Grazie, buona giornata, professore. Ovviamente, caro Mario Calabresi, adesso ci fermiamo un minuto per la pubblicità, poi 800 24 00 24 per gli ascoltatori, se vogliono intervenire, dire la loro. Certo, della Calabria si parla poco, effettivamente la cosiddetta Stalingrado era per Salvini o per Bonaccini, era l'Emilia Romagna, era lì che si giocavano i destini grandi, se no la Calabria è un'importante elezione regionale. La Calabria, no? Diciamo, è stato un sussulto di vita di Forza Italia. Sì. La candidata era di Forza Italia. E anche con una netta vittoria. Esatto. Eh? E mentre in Emilia sostanzialmente Forza Italia è scomparsa. E questo è vero. Non esiste questo più. Questo è vero. Guarda qua i partiti, effettivamente. Il Movimento 5 Stelle ha preso il 4,73% in Emilia Romagna. Dire che è nato proprio, no? Era anche Pizzarotti, i primi sindaci. E poi per il resto Forza Italia ha preso il 2,56%, sostenevo ovviamente Lucia Borgonzoni, 2,56%. Ma in tantissime parti d'Italia, ma soprattutto nel nord, Salvini ha mangiato completamente Forza Italia. Eh sì. Un attimo di pubblicità e poi ritorniamo qui. Uno, nessuno, 100 Milan. Le sardine sono stata la polpetta avvelenata che il PD ha servito al centrodestra. L'unica cosa bella del giorno dopo delle elezioni sono le dichiarazioni dei Trombati. Quelle fanno veramente morire dal ridere, sono il top. In questo devo dire, nella mattina dopo, come dice l'ascoltatore, in questo devo dire Salvini è stato diverso, anche in questo senso non so cosa ne pensi Mario, rispetto al classico paludato politico che va in TV e dice no, adesso vediamo. Ma poteva no, dire una abbiamo cosa il 32%, no? Una cosa che uno che va riconosciuta è che ci mette sempre la faccia. Sì, cioè, e poi ha detto abbiamo perso per quando primo a parlare e lo ha detto, e la sua forza è il fatto di non stare lì anche a farsi cucinare, diciamo, sì. ma di metterci la faccia e di farlo in prima persona. E due errori. Salvini non deve ha fatto, diciamo, una scommessa e quella scommessa l'ha persa. Dall'altra parte però, se il governo, il PD pensassero che questo rappresenti qualcosa e abbia cambiato l'umore del paese, che quindi, diciamo, il centrodestra, il primo, non sia in crescita, in ascesa, maggioritario, e soprattutto che ha evidenziato tutta una serie di malesseri che ci sono nel paese e non li vedesse, questo proprio fa un grande errore. Certo. Ci segnalano che in Calabria Forza Italia al 12,50 e Lega al 12,17 e come diceva Mario Calabresi, effettivamente in Calabria c'è stata una grande... Ieri erano tutti lì, Calabria, Tajani era in Calabria, Gasparri era in Calabria, sì. Berlusconi è intervenuto via telefono in Calabria. Quando io dico il 2,56% è in Emilia-Romagna invece Forza Italia, quindi sono due aspetti. Però guarda quanti ascoltatori, vediamo che contributi possono darci. Andrea da Brescia, buongiorno Andrea. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Buongiorno e grazie per l'opportunità che mi date. Io volevo fare una domanda, nel senso, non sono mai stato bravo in matematica, anche alle superiori andavo malissimo, però volevo capire come può essere che rispetto alle ultime regionali il PD passa dal 44 al 34%, i 5 Stelle passano dal 13 mi sembra al 4-4,5%, la Lega passa dal 19 al 32. Ecco, io vorrei capire come fa il governo a uscire rafforzato, cioè va perché il PD quando perde, quando dimezza i voti in Basilicata si dice soddisfatto, sì. Però non riesco a capirlo. Ecco, insomma, lei sono modi di vedere la questione. Effettivamente la partita per la elezione del presidente è stata persa, però Andrea dice quello ma che si diceva sui partiti. Quello che stavo sottolineando anch'io. Come ho chiesto a Pasquino, cioè la Lega è 2 punti percentuali dal PD in Emilia-Romagna, la però, regione però rossa. Però le regioni la Lega era prima. Sì, sì. All'europea la Lega era prima. Perché il governo rafforzato? Perché la scommessa di Salvini era di vincere lì e quindi dando un colpo al cuore, sì, al PD, al governo, e facendoli cadere. Il fatto che non sia riuscito a vincere ha fatto venire meno questa ha fatto venire meno questa scommessa. Detto questo, io ripeto, come dicevo prima, e sono d'accordo con l'ascoltatore, che se il PD pensa di avere vinto nel paese fa un gigantesco errore. Anche perché c'è la grande incognita effettivamente del Movimento 5 Stelle, che è molto molto indebolito nelle ultime tornate elettorali, nelle grandi discussioni interne. Oggi ho letto già un'intervista di Paragone fuoriuscito dicendo il Movimento è morto, lo ricostituisco io a partire dai Tap. Insomma, cioè, vedi come cambia tutto in fretta, però, Mario, in politica. Fino a qualche mese fa il PD non era il governo e molti dicevano ma non andrà mai al governo tramite le elezioni. Poi sappiamo cosa è successo, è andato al governo, adesso è come dire l'ala forte del governo, perché il Movimento 5 Stelle invece si è molto indebolito, no? Dobbiamo abituarci a questa politica che cambia ogni due anni rapidamente. Viviamo tempi di cambiamenti anche di sentimenti dell'opinione pubblica che sono velocissimi, però bisogna guardare ai fenomeni sotterranei e i fenomeni di lunga durata, secondo me, indicano uno spostamento verso destra dell'umore dell'opinione del paese. Certo. Sentiamo Luigi da Parma, il primo ascoltatore che ci chiama da una delle regioni in cui si è votato. Luigi, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Prego, volevo prego. Semplicemente ricordare che mi sembra un pochettino ozioso questo continuo chiedersi E adesso cosa faranno le sardine? Le sardine hanno riempito le piazze chiamando la gente intorno semplicemente a valori etici e morali. Credo che di questo ne debbano tenere presente tutti, a partire dal PD, ma credo anche tutte le forze politiche. E l'unica cosa credo che ci sia da augurarsi è che tutte le persone che sono andate in piazza richiamate intorno a questi valori poi trasformino in pratica questa loro testimonianza in qualsiasi formazione politica poi ritengono di riconoscersi. Quindi va bene, questa è la sua analisi, insomma. Beh, certamente le sardine che sono nate, ricordiamo, per un moto di antisalvinismo, ricordiamo tutti che sono nate il giorno in cui Salvini manifestava a Bologna e hanno fatto la contropiazza, da lì sono nate. Quindi Luigi richiama al ruolo che hanno avuto non tanto politico ma di movimento civile. Sai che mi segnalano che la battuta più bella l'ha fatta Mentana in una delle sue 500 maratone interminabili. Con Salvini andrà a Sanremo con il brano Piange il citofono. Questo pare che Mentana abbia detto questo. Chissà se le due cose finali della campagna elettorale di Salvini, cioè il citofono e il comizio di Bibbiano. Se hanno inciso, dici? Sì, se hanno inciso, si pensava che potessero spostare dei voti in suo favore. Se uno guarda i sondaggi dell'ultimo periodo e poi il risultato, sembrerebbe il contrario. E questo sì. Sentiamo anche Alberto da Milano. Buongiorno Alberto. Buongiorno a tutti, buongiorno Milan. Sì. Una breve considerazione sul rimarcamento del fatto che il PD è primo partito in Emilia-Romagna con 2,5 punti davanti alla Lega. Non ho sentito considerazioni sul fatto che Italia Viva non si è presentata e molto probabilmente, secondo me, i voti che sarebbero andati a Italia Viva sono confluiti nel PD. Quindi è un PD pre-scisma Renzi. Ah, beh, questo è interessante. Questo è vero, però bisogna anche tener conto che c'era la lista Bonaccini che ha preso, se non sbaglio, quanto tu hai dati sotto, mi sembra 8 punti, intorno a 8 punti. Dunque, la lista Bonaccini presente 5,77. Quindi diciamo così, molti di Italia Viva hanno votato lì, secondo me. Forse si può immaginare che quei 5 punti che vengono attribuiti virtualmente a Renzi, secondo i sondaggi, possono essere dentro il PD, però il PD ha dato quell'area lì, ha dato oltre 5 punti a Bonaccini. Un renziano chi avrebbe dovuto votare, secondo logica? Vabbè, che abbiamo... forse la lista Bonaccini. La lista Bonaccini, appunto, sì, ma sicuramente avrebbe votato, penso, in quell'area politica lì. Non credo che un renziano possa votare la Borgonzoni o Benini, eccetera. Anche se, sai, la notizia più pazza è questa di quel delegato della CGIL che adesso poi si vedrà, perché è una vicenda giudiziaria, era in malattia ed è andato a farsi un selfie con Salvini e per questo è stato licenziato in tronco. Ma essendo un delegato della CGIL, ho scoperto che si era candidato anche di recente in una lista supportata dal centrodestra, anche dalla Meloni, da Fratelli d'Italia, che già, voglio dire, sei un delegato della CGIL, appoggiato invece dalla Meloni, qualche confusione mentale ci deve essere. Beh, però no, non è così, perché ci sono anche pezzi del sindacato che guardano, che hanno guardato ai 5 Stelle, che guardano a Salvini, ma anche alla Lega. Il mondo di riferimento della CGIL è che il primo sono i pensionati, i dipendenti, gli operai, gli insegnanti, non vota mica tutto a sinistra, anzi. In ogni caso, questo è successo. Va bene, dai, 9:44. Andiamo a sentire le informazioni sul traffico. Poi magari diciamo qualcosa sulla querelle che c'è stata via stampa, via Twitter, sul tema della giustizia tra... Non tanto il ministro Bonafede, che ha lanciato in un'intervista da Lilli Gruber, ha lanciato un po' il tema sull'innocenza e il carcere. Poi Marco Travaglio è intervenuto, Gaia Tortora, che non solo è una collega, insomma, di La Sette, ma anche la figlia di Enzo Tortora, ha risposto per le rime su Twitter. Tra l'altro l'abbiamo cercata Gaia Tortora, ma giustamente è in onda. Cioè, lì fanno le maratone sulla 7, caro Mario, non si staccano mai dalla TV, quindi avremmo voluto un intervento di Gaia Tortora. Magari diciamo due cose su questo tema della giustizia, tra poco. Uno, nessuno, 100 Milan. Nove e 45 minuti. Non ti ho chiesto, mannaggia, la mattina dopo di Sarri. che cattivo che sono. Ma no, ma l'ho fatto solo perché sapete che Mario Calabresi imita alla perfezione Sarri, no? Cioè praticamente è il gemello di Sarri che... Non voglio parlare della mattina dopo. Mi basta già la sera esatto. Attuale, insomma. Esatto. Vabbè, è andata così, dai, una volta che vi abbiamo rosicchiato tre punti noi del Milan, adesso vi veniamo a prendere, e più o meno fammi gioire su questo. Allora, in realtà no, non ti ho chiesto della mattina dopo di Conte, questa è di Conte, non no, te l'ho chiesto. No, te l'ho detto, sollevato. Ah, giusto, sì, sollevato, effettivamente dice... Rallegrato. Sì, ma io dico, ma voglio dire, ma adesso... Diciamo così, secondo me stamattina Conte a questo punto sta facendo, come dire, virtualmente i biglietti per andare al G8, pensa a cosa erano farà. Erano tutti sospesi? Ma sì, cioè la segretaria ha detto, quando parte? No, aspetta. Invece sta facendo quelle cose lì. Va bene. Allora, sul tema della giustizia, perché forse, ecco, una delle cose sulle quali si discute di più, il governo discute di più, è questo del tema della giustizia. È successo un putiferio dopo che si parla tanto di prescrizione. Il ministro Bonafede è andato da Lilli Gruber a 8:30 e ha detto che cosa? Vai, Pippo. Ogni tanto anche agli innocenti che finiscono in carcere, perché sono tantissimi e sono tantissimi che finiscono in carcere e potrebbero vedere per anni. Cosa c'entrano gli innocenti ma che finiscono in carcere? Perché se la gli prescrizione... innocenti non finiscono in carcere. No, sono gli innocenti non finiscono in carcere. Scusi, allora dal 92 l'ha detto, al 2018, l'ha detto due volte ad Annalisa Cuzzocrea di Repubblica che l'ho intervistata. Poi devo dire ha precisato, diceva no, ma intendevo con la prescrizione, ha detto sono il primo ministro che si muove. Io devo fare i complimenti Annalisa Cuzzocrea perché, sì, bravissima. Perché anziché fare come succede troppo spesso in televisione, e cioè di fronte a un ministro che ti dice gli innocenti non finiscono in carcere, quanto sappiamo quante vite distrutte anche ci sono con la carcerazione preventiva piuttosto che con condanne sbagliate, non gli ha risposto alzando i toni, ma gli ha messo un numero di fronte: 27.000 persone riconosciute innocenti a cui lo Stato ha dovuto dare un risarcimento. A questo punto è intervenuto ieri con un editoriale sul Fatto Quotidiano Marco Travaglio. Leggo il passaggio in cui scrive: i detenuti in custodia cautelare, scrive Travaglio, per la nostra Costituzione sono già presunti innocenti, quindi non c'è nulla di scandaloso se un presunto innocente, tra virgolette, è in carcere. È la legge che lo prevede. Apriti cielo, Gaia Tortora ha scritto un tweet con grande, come dire, con un francesismo. L'ha mandato a quel paese. L'ha mandato proprio a fare. Dicendo, per anni sono stata una signora, sono stata in silenzio. Ovviamente rievocava la vicenda di suo padre, Enzo Tortora, in carcere e ammanettato proprio fisicamente con la foto. E messo in carcere. Che dire, caro Mario? Ma che sarebbe veramente tempo... Il garantismo in questo paese è un sano garantismo, non un garantismo furbo, peloso, eccetera, eccetera. È diventato merce politica, merce di scontro politico negli anni di Berlusconi. Mm-hmm. Oggi sarebbe tempo di, da un lato, lavorare sull'efficienza della giustizia, perché anche l'idea di togliere la prescrizione e di poter condannare dopo chissà quanto tempo, la giustizia che arriva fuori tempo massimo, sì, è anche una giustizia che ha un valore diverso. Mi metto dal punto di vista delle vittime, ma vittime che passano una vita aspettando, certo, hanno una vita distrutta. L'efficienza della giustizia è per tutti, e dall'altra parte però anche un garantismo che garantisca che chi è accusato di qualche cosa veda le accuse provate in un tempo ragionevole. In fretta, questo sì. Allora, va bene, teniamo ancora il tema elezioni. C'è Paolo dalla provincia di Bologna, mi segnalano essere stato uno scrutatore ieri. È così, Paolo? Buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Buongiorno. Sì, io sono... Buongiorno anche a lei. E intanto condivido le vostre valutazioni sull'andamento delle elezioni in Emilia-Romagna. Io ieri sono stato a un seggio nella cittadina di Budrio, quindi provincia di Bologna, e devo segnalare che il voto disgiunto, anche se in piccoli numeri, ha avuto una certa influenza. Ecco da quello che ha visto lei coi suoi occhi, che tipo, sì, di voto disgiunto c'era? Allora, io parlo di cifre piccole, abbiamo avuto 550 voti effettivi, del Movimento 5 Stelle un terzo di quelli che hanno votato la lista hanno votato però come presidente della regione Bonaccini. E Bonaccini ha avuto anche due voti da due elettori di Fratelli d'Italia. Interessante, ecco, sono piccoli numeri, però se poi facciamo il ragionamento su tutta la regione, possono aver avuto una certa influenza. Io poi vi dico, io da Budrio, che io sono stato anche un attivista del Movimento 5 Stelle per 3 anni fino alle famose elezioni comunali di Bologna, quando ci fu tutta la polemica, cui me ne andai via, ho vissuto tutta l'ascesa del Movimento 5 Stelle e il tracollo finale. Ecco. Infatti da noi ha preso 22 voti su 550. Vabbè, insomma, ascolti, le posso chiedere se dal suo punto di vista, sì, esistono ancora qualche cosa di curioso, di strano? Io per anni l'ho fatto, lo scrutatore, ho fatto anche il presidente di seggio, e c'erano quelli che facevano, che scrivevano cose, insulti, sì, scherzi. Sono diminuiti rispetto a una volta. Tra l'altro c'è anche stata una semplificazione del voto, perché molti partiti minori praticamente non esistono, sì, più. No, ecco. Ma forse calabrese intendeva proprio gli scherzi, frasi, scherzi, insulti, frasi. No, non ce ne sono più. No. C'è, anni fa è successo la fetta di salame dentro, sì, la fetta. Ah, ma allora non è una leggenda, sì, la fetta di salame. Con la famosa scritta: mangiatevi questo. Sì, vi siete mangiati tutto, mangiatevi anche ma questo. Allora sì, esistono, perché sono un po' come le leggende del pronto soccorso. Invece... Esistono. No, esistono. Mangiatevi anche questa. Ma 20 anni fa, ve lo dico, lo feci anch'io. Paolo! Non con una fetta di salame. No. Io avevo un timbro con zio Paperone, lo stampai sulla scheda, ci disi la X sopra, e poi lei votò zio Paperone, sì, poi secondo e lo me dice. Sì secondo me non ho mica problema a dirlo, adesso chiamiamo ecco. Travaglio, vediamo se è in prescrizione questo tipo di reato perché mi sa che lui avrà qualcosa da dire. Guardi, adesso vediamo, le schede nulle erano poche, le faremo sapere tramite la Digos, Paolo, grazie, sì, grazie, prego, dalla provincia di Bologna. Ha votato Paperone, secondo me adesso voleva fare lo scrutatore anche un po' per riscattare con questo suo senso civico. Come espiazione, senso di colpa. Sentiamo Stefano dalla provincia di Ferrara, eccoci. Buongiorno Stefano. Io praticamente sono confinante del signore di Budrio, ho fatto anch'io scrutatore. Devo dire, c'erano parecchie schede. La linea però la miglioriamo, Stefano. Andiamo intanto in provincia di Foggia da Angelo e poi ritorniamo da Stefano. Angelo. Buongiorno, grazie per aver fatto partecipare. Niente, io sono uno di quelli che ha votato 5 Stelle. Ho 70 anni, faccio l'imprenditore, però li ho votati perché indubbiamente ero un po' sotto le scatole di destra, di sinistra, di tutto l'andazzo sanitario, della burocrazia, eccetera. È chiaro che sono rimasto anche io un po' deluso, anche se li voterò ancora, soprattutto sul fatto della giustizia, perché il giustizialismo, secondo me, come l'hanno impostato loro, non paga. Però per il resto devo dire che hanno fatto moltissime leggi che comunque sono segni di un cambiamento, a prescindere dal fatto che non hanno un leader vero e proprio. Quindi voglio sapere che ne pensa, perché questo abbandono. Io non penso. Ma lei li rivota adesso? Li rivoterebbe? Ma certo, perché se devo votare Salvini un'altra volta il PD, a meno che non ha avuto un effetto automaturgico nel migliorare il PD, e anche perché almeno una cosa, leggi fatte. Sì, come una volta con le lobby, non ce ne sono fatte. No, ma è chiaro, insomma, la sua analisi è chiara, Angelo, perché così andiamo, se no, rapidamente in chiusura. Volevo lasciare l'ultimo minuto a Mario Calabresi, insomma, rispondere allora, secondo te, come mai questo insuccesso del Movimento 5 Stelle? Angelo li rivota, per esempio. Ma certo, ci sono, diciamo così, il voto di ieri ha polarizzato, lo scontro di ieri ha polarizzato, li ha sicuramente penalizzati di più. Io non credo che i 5 Stelle stiano al 5%, penso che abbiano il triplo dei voti nel paese. È vero che hanno, intanto pagano il fatto che hanno governato per un anno con la Lega e poi sono passati al PD, e questo qua ha scontentato riesce a scontentare due parti del tuo elettorato. Perché da una parte avevi deluso una parte andando con la Lega e poi hai deluso un'altra andando col PD. E secondo, la quantità di indecisioni, di improvvisazioni. E c'è anche un dato, quello che ha detto Di Maio quando ha lasciato appunto la carica, diciamo così, l'incarico di leader del movimento, sono state le guerre intestine. Le guerre intestine che lui l'ha proprio definite, pensiamo soltanto a tutto quello che è successo in questi mesi, queste divisioni e questa confusione si pagano. Eh sì, molti che se ne sono anche andati, che hanno cambiato proprio casacca all'interno del Parlamento. Va bene, noi ci fermiamo qui per la prima ora. Ringraziamo Mario Calabresi. E quando adesso vuoi ti lascio tutto solo la seconda. Sì, no, se vuoi stare qui, guarda che. Fanno cenno così, rima, resta. La prossima settimana. Eccolo lì, va bene. Giornale radio. Il segnale orario vi è offerto da. Samu Expo, metalmeccanica, plastica e subfornitura. 6-7-8 febbraio, Fiera di Pordenone. Uno, nessuno, 100 Milan. Allora, cari ascoltatori, siamo qui fino alle 11, parliamo, se volete, ancora di politica all'800240024, ma ci sono anche altri temi. Per esempio, tra poco ci collegheremo con Wuhan, la città della Cina, che insomma vede la questione di questo nuovo coronavirus, nuovo ormai, non è neanche più nuovo, con maggiore apprensione. Non capisco quelli che dall'inizio scrivono: ah, sei contento, sei felice, non sei contento. Cosa cantate vittoria? Cantiamo vittoria. Vittoria di chi? Del Milan, sì, terza vittoria consecutiva. Ieri ha vinto anche la Pro Sesto, seconda vittoria consecutiva, e siamo tornati primi in classifica, solitari in Serie D. Ma saremo in Serie C l'anno prossimo. Serie D, in Serie D, cioè, capito? Però cantiamo vittoria, ma di che cantiamo vittoria? Ma cosa sta dicendo? Cosa state dicendo? Stefano dalla provincia di Ferrara, buongiorno. Pronto, spero si senta meglio. Benissimo. Ecco, niente, io volevo far presente che in controtendenza la provincia di Ferrara è tutta passata alla Lega, tutta quanta. È la prima volta dopo 75 anni che... la sinistra non è maggioranza in provincia di Ferrara, quindi oltre che avere il sindaco, praticamente ovunque, da uno spigolo all'altro della provincia, è tutta del centrodestra. L'analisi secondo me è questa: Bonaccini non l'ha detto in giro, ma noi abbiamo una disoccupazione che è il doppio di quella regionale. La mia idea è che hanno votato Bonaccini quelli che stavano bene, Okay. Chi sta male vota e chi continua a star male. Ma guardi Stefano, se la Lega appunto ha il 32% nella regione, nella regione è 31,96, quindi diciamo 32, e il Partito Democratico il 34,7, quindi 2,7 punti di differenza, che non sono una, ci sarà un motivo, e quindi evidentemente non mi stupisce che in alcune province come quella che lei dice di Ferrara la Lega è davanti, ecco. Quindi insomma è quasi un testa a testa tra PD e Lega a questo punto in Emilia Romagna, che detta così 10 anni fa o 15 anni fa pareva un'eresia, pareva una cosa incredibile, e invece Stefano adesso è così. Comunque la ringraziamo per aver sottolineato questo aspetto, poi nei prossimi giorni ci saranno tutte le analisi provincia per provincia. Adesso però non c'è solo la politica, vogliamo ampliare un po' i nostri orizzonti perché siamo in grado di collegarci con uno dei non tantissimi italiani che si trova nella città di Wuhan in Cina. È la dottoressa Sara Platto, che è professora associata di comportamento e benessere animale presso la Jiangan University a Wuhan. Buongiorno dottoressa Platto, eccoci. Salve, salve, buongiorno a lei. Lei è anche una consulente scientifica alla China Biodiversity Conservation and Green Development Foundation. Insomma, intanto è lì per lavoro. Esatto. In una città, sì, che ci descriva lei, perché ci piace andare, come dire, alle fonti. Abbiamo la fortuna, okay, di sentire la voce di una persona che vive nella città, che è considerata la città, come dire, più protetta dal punto di vista del virus e più controllata. Ci dica come si vive lì. Adesso o in generale? Adesso, ma allora, vorrei sottolineare che noi italiani siamo appunto in pochi, siamo in 25 almeno, quelli nel gruppo di italiani di WeChat, del media che usiamo per comunicare tra di noi. Sì. E noi siamo abbastanza tranquilli, nel senso che ovviamente la situazione è seria perché appunto è un'epidemia, ma nel senso che al di fuori la gente ovviamente non è che cammina o va per strada o corre, però oggi per esempio ci diceva uno dei nostri connazionali che aveva fatto una passeggiata lungo il fiume, c'erano i nonnetti che giocavano al come si chiamano, gli scacchi cinesi, al Wei Chi. Sì. E poi un altro connazionale ci ha mandato un video di ragazzi che giocavano a pallacanestro nel suo compound. Io infatti poi ho guardato fuori, c'erano dei nonnetti che passeggiavano nel giardino del mio compound. Oggi tra l'altro non è una bellissima giornata, è nuvoloso. E Wuhan sì, è deserta rispetto alla Wuhan che conosciamo, è più deserta rispetto alla Wuhan di un Chinese New Year, dove ovviamente si svuota perché la gente va via e va a casa loro in altre zone della Cina, e tutti noi andiamo in giro con la mascherina e stando attenti a non andare comunque in zone affollate. In questo momento non ce ne sono, forse a parte qualche supermercato, ma stiamo in casa, nel senso stiamo fondamentalmente a casa per la maggior parte del tempo, quindi siamo annoiati. Io ho un bambino di 12 anni. Certo, che non, sì, può, non potrà andare a scuola? Non potrà andare a scuola in questo momento? Sì, la scuola adesso è chiusa, allora lui va alla scuola internazionale e la sua scuola era chiusa fino al 3 di febbraio, ma ovviamente hanno già inviato le informazioni che saranno chiuse almeno per un'altra settimana, ovviamente sarà probabilmente anche di più. E le scuole cinesi invece, almeno la mia università doveva aprire il 18, ma ho ricevuto oggi l'informazione che ci sarà appunto un ritardo anche in quello. Senta, le scuole cinesi per esempio sono aperte? Sono aperte le scuole cinesi? Le scuole cinesi ho sentito, perché ci sono alcuni italiani che hanno i figli che vanno nella scuola cinese, che gli insegnanti sono già mobilitati a organizzare delle lezioni online per non far perdere i bambini in scuola. Allora, le chiedo questo, professoressa Platto, perché lei appunto si occupa di animali, c'è stato questo grande dibattito, sì, non ci sono certezze, però si è parlato del virus virus che potrebbe essere passato dai pipistrelli ai serpenti e poi mutato e ha fatto il salto di specie, ecco, nell'uomo. Sappiamo anche, abbiamo letto, che è tradizione per alcuni da quelle parti di mangiare la carne di alcuni animali, come i serpenti appunto, o le marmotte, gli zibetti. Ci aiuti a capire qualcosa? Allora, io non sono una virologa, quindi da veterinario le posso dare una visione molto generale. Il coronavirus è un RNA virus, per cui sì, la tipologia di virus ha la tendenza di modificarsi da un host all'altro. Allora, per quanto riguarda le abitudini, che non sono abitudini, nel senso, dire che è un'abitudine sarebbe riduttivo. In Cina c'è una cultura, c'era ed è una cultura che esiste ancora, ma si sta gradualmente riducendo, di consumare animali, diciamo, non convenzionali, animali selvatici, ok? Per esempio la fondazione con cui lavoro sta facendo da tanti anni una lotta agguerrita contro l'utilizzo e il consumo di animali selvatici in generale, sia per la medicina tradizionale cinese che per il consumo da tavola. Allora, negli ultimi anni cosa è successo? Si è verificato, ma non solo in Cina ma anche in generale in Asia, in seguito a un incremento del benessere economico, soprattutto della classe media, un aumento, diciamo così, di richiesta di animali non convenzionati, di, non so, carne o di medicine, appunto, fatte da questo tipo di animali, diciamo così. Non solo perché è un'abitudine, ma in molti casi rappresenta uno status, cioè nel senso che se ho dei soldi posso anche permettermi di fare questo tipo di consumo. Ma non solo questo, ma anche del tipo: io compro, non so, ad esempio la zuppa di pangolino, mettiamo il caso, e la regalo al mio capo, o la regalo a qualcun altro, no? E questo è un del tipo: io, mostro che sono diventato rispettabile, ecco questo. Io acquisto rispetto per questo dono che faccio, quindi rappresenta uno status, è questo. Infatti, però dal punto di vista appunto, lei non è una virologa, però avrà letto qualcosa, cioè è verosimile questa idea che da un animale sia passato... Sì, nel senso ci sono, le malattie che passano dall'animale all'uomo sono le zoonosi e ce ne sono tantissime, nel senso non è solo questa situazione. E allora dai serpenti magari dubito, perché normalmente i virus passano da mammifero a mammifero, nel senso siamo nello stesso tipo di genere. E per esempio abbiamo avuto anche l'influenza aviare, per carità, quindi abbiamo avuto anche uccelli che hanno trasmesso un virus all'essere umano. Però ecco, normalmente rimaniamo nello stesso tipo di genere di animali. Per cui quello che volevo dire, sì, c'è la possibilità, certo. Sì. Infatti, per esempio, il virus attuale è partito, secondo appunto le analisi fatte, da il cosiddetto wet market. Allora, da un mercato di animali esotici. Professoressa Platto, scusi, le devo chiedere una cortesia. Dobbiamo dare le informazioni sul traffico, ma se ha la pazienza torno da lei tra un minuto, cioè ci ricolleghiamo a Wuhan, perché insomma è molto interessante questa chiacchierata. Tra un attimo. Promo 24. Eolo, internet a banda ultralarga, porta connettività fino a 1 giga simmetrico anche alle imprese nella provincia italiana. Eolo Azienda è la connettività ultraveloce con soluzioni progettate su misura per la tua impresa, anche se si trova nei nostri comuni più piccoli. Eolo Azienda ti permetterà di navigare fino a 1 giga, attivare il servizio in soli 5 giorni e di ricevere sempre un servizio di assistenza immediata. Un team Eolo dedicato alla tua azienda, con una risposta telefonica garantita in 20 secondi. Per scoprire le offerte Eolo solo azienda, chiama il numero verde 800 939 939 oppure visita il sito azienda.eolo.it. Uno, nessuno, 100 Milan. Allora, siamo qui in collegamento con la professoressa Sara Platto, veterinaria e docente alla Jiangyan University a Wuhan. Professoressa Platto, l'aspetto pratico, gli americani vogliono far evacuare i loro concittadini, così i giapponesi, gli italiani, avete avuto notizie di come potreste e se volete lasciare la città? Sì, allora l'ambasciata italiana ci ha contattato ieri a tutti quanti e praticamente ci ha detto che almeno l'informazione che ci hanno dato ieri era che avrebbero, se volevamo, potevamo andare con un autobus a Changsha, che è una città sempre della Hubei Province, ma a 300 km da Wuhan. E però lì avremmo dovuto poi rimanere 2 settimane in quarantena in un ospedale cinese e vabbè, poi mi sono fermata perché ovviamente... Ma scusi, cioè vuol dire dovreste prendere un autobus, fare 300 chilometri? Sì, dovete prendere. Sì, fare 300... stato organizzato. Sì, ok. Ovviamente. Fare 300 chilometri, stare 2 settimane in quarantena in un ospedale cinese e poi nel caso rientrare in Italia. No, questo... e poi mi sono fermata, nel senso non ho chiesto neanche il poi, perché mi sono fermata, perché nel senso razionalmente ho detto vi ringrazio, ma no, perché prima cosa, nel senso meno da veterinario, e ho detto se ci mettiamo su un autobus in 25, tra l'altro gli autobus in Cina hanno la ventilazione interna a causa dell'inquinamento, per cui non arriva dall'esterno. E cioè rischiate di infettarvi se mai qualcuno lo fosse, ecco. Sì, nel senso, e poi arriviamo in questa città che comunque è la città minore rispetto a Wuhan, più piccola di Wuhan. Sì, vabbè, nel senso qualche milione di abitanti, però comunque più piccola, e dovremmo stare per 2 settimane in un ospedale cinese, che suppongo anche loro avranno, diciamo così, i loro malati, insomma il loro afflusso di persone che insomma da non dottor, stanno da bene. Dottoressa mi sembra che non la veda come una cosa, un percorso molto sicuro, no, ecco, detto, molto in sicurezza. Sì, no, io infatti ho detto di no, nel senso che mi sento più sicura qui a Wuhan, a casa mia. Com'è la vita quotidiana, cioè nei supermercati, perché uno dovrà anche comprare qualcosa, dovrà girare, non è che sì, potete stare in casa barricati. Certo, no, sono andata... Oddio, perché adesso sto perdendo la cognizione del tempo. Sono andata 2 giorni fa, credo, sì, al supermercato. Ma i supermercati hanno tutti i prodotti, nel senso che non è che manca, sì, non manca nulla. Io ho fatto le mie belle scorte, così che non devo andare al supermercato. Ma quello era comunque un'abitudine mia. Io ho sempre fatto la spesa per una settimana, perché sono sempre di corsa impegnata, per cui... Non andavo ogni giorno a fare la spesa, sì. Però i prodotti ci sono, nel senso che addirittura nel nostro gruppo di italiani abbiamo anche riso, perché alcuni supermercati cinesi, nel senso di locali, hanno addirittura messo la pasta italiana, cosa che normalmente non c'era. Ha messo prima. Perché qui ovviamente se uno legge i giornali, se uno guarda i giornali internazionali, so, i telegiornali, sembra, cioè, non si capisce, non si ha la percezione di quanto sia temibile. Certo, effettivamente che la Cina sospenda per esempio tutti i festeggiamenti per il Capodanno non è una cosa secondaria, voglio dire, la questione è molto seria. Guardi, allora, io le posso dire la mia opinione. Guardi, noi italiani, lo posso dire anche da parte del mio gruppo, gli italiani che sono qui a Wuhan, siamo amareggiati per come certi giornalisti italiani hanno trattato le notizie di Wuhan. E io le dico, noi siamo abbastanza calmi, certo ci sosteniamo a vicenda, magari c'è qualcuno di noi che magari a volte gli viene un pochino più ansia perché è da solo, e quindi ci contattiamo, ci chiamiamo, ok? E però al di là di quello scherziamo, cerchiamo di tenere sul morale. Cioè dite che tranquilli. È stato fatto un po' troppo terrorismo, tra virgolette, è stato troppo esagerato. Ma troppo è un eufemismo, cioè io devo spendere ogni giorno più di mezz'ora per tranquillizzare mia mamma con l'ansia a 10.000, la quale non vuole credermi. Dico, mamma, sono qui, cioè io le spade le vedo, cioè sul mercato lo vedo. No, mi hanno fatto vedere che c'è gente che cade per strada. Ho detto, guarda, insomma, non c'è nessuno che cade per terra. Questo effettivamente non so dove sia stato visto. Non c'è nulla. Allora, io le posso dire, nel senso che io cioè, guardo fuori la gente, cammina tranquillamente, mi hanno appunto, come le ripeto, altri connazionali hanno fatto la passeggiata sul fiume, c'erano i nonnetti che giocavano agli scacchi cinesi e addirittura ha detto uno che pescava. Per cui, nel senso, la gente cerca di vivere normalmente la normalità al massimo che può, ok? Nella situazione che c'è adesso. Ovviamente bisogna stare attenti. Allora, il virus, una persona viene contagiato, e parlavamo anche oggi nella chat, cioè uno si contagia se è un medico ed è a costante contatto con le persone malate, quindi hai una probabilità altissima di contaminarti, ok? Primo. Secondo, se qualcuno ti starnutisce in faccia, nel senso, cioè proprio una persona deve starnutirti nelle vicinanze e diciamo essere nebulizzato, ok? A livello di Chanel numero 5, ok? E venirti addosso. Cioè, devi essere a contatto con le persone malate per essere per infettarti. Per cioè, diciamo, con alcune precauzioni si può evitare, sì, è chiaro che si vive un po' con questa ansia. Ma certo, ma quando si va al supermercato e c'è tanta gente, ovviamente evito il luogo dove c'è la massa di gente, sì, sulla zona frutta che sta cercando di andare, non so, a pagare o altro. Cioè, esatto, vado da un'altra parte. Allora, okay? Facciamo così, intanto sì. Ci sono, sì. Prego. Ci sono delle precauzioni che devono essere mantenute, ma ripeto, io non voglio sminuire, perché come ripeto è una cosa seria, però ecco, io voglio dire questo: la Cina sì, ha bloccato le comunicazioni, i trasporti, ma ha fatto bene, ha chiuso Wuhan, ha chiuso la provincia, ma ha fatto bene. Se lei si renda conto che nell'arco delle 3 settimane del Capodanno cinese ogni anno 1.400.000 persone si muovono, cioè lei si può immaginare cosa sarebbe successo se non avessero preso una precauzione del genere? No, ma è chiaro. Allora mi dicono, sì, no, volevo farle dei numeri, cioè mi dicono che appunto in Cina ci sono 2.400 infetti, 2.500 se non so i numeri, e 80 circa morti. In Cina, ok? In Cina su 1.400.000 individui. Sì. Io un giorno, nel senso, ho fatto il calcolo che il mio edificio, ok, ha praticamente 2 entrate e 33 stairs, ok? E ci vivono in tutto, facendo un calcolo approssimativo, 1.056 persone solo nel mio edificio, e nel mio compound ci saranno una 30 di edifici, quindi lei faccia il calcolo, cioè di quanta gente. Sì, è chiaro che è molto complicato. Allora, si fermi qui. Intanto la ringraziamo molto, Sara Platto, visto che ha deciso di rimanere a Wuhan, perché non ha accolto l'invito dell'ambasciata di quel viaggio un po' lungo e complicato. Magari ci risentiremo nei prossimi giorni. Allora, vogliamo sentire un'ascoltatrice e poi andiamo alla borsa. C'è Marta da Cosenza. Buongiorno Marta, eccoci. Buongiorno. E io ero, dopo queste notizie, mi sembra anche abbastanza sterile discutere di Calabria. No, però. Ma no, non è vero, noi parliamo di tante cose. No, lo so. Torniamo alla questione regionali, prego Marta. Ecco, il giorno dopo siamo, penso, in molti combattuti dalla voglia di dire vabbè, è successo, continuiamo come prima, non cambia nulla, il che in parte sarà anche vero, oppure quello di discutere ma abbastanza con un senso di inutilità. Io mi rendo conto che la Calabria contava poco, non era il problema grosso di queste due tornate regionali, però è anche vero che la Calabria è il luogo di cui si parla perché è la regione da cui nasce l'Ndrangheta, è anche vero che l'andrangheta ora in tutta Italia e in tutta Europa è il maggiore business, ma è anche vero che gli andranghetisti fanno di tutto per tornare qui. Allora, una riflessione è: questa regione è veramente un problema italiano? E io che non sono calabrese, ma insegno all'università qui da quasi 40 anni, mi sono calabresizzata, ho la sensazione netta che si sappia e si capisca poco, anche nei commenti, di cosa sia veramente questa regione. Gliene do solamente uno per brevità. Nessuno voleva candidarsi. Per trovare la candidata Santelli hanno dovuto arrampicarsi sugli specchi. Era la vice sindaco di un sindaco che invece voleva molto candidarsi ed è stato scartato da Salvini perché ha un sacco di problemi penali irrisolti, ha portato al dissesto il comune che governa, e Santelli era la sua vice sindaco, quindi voglio dire, è un po' farsesco pensare che lei sia cosa altra da. Però lei sta facendo delle accuse pesanti, cioè a dire se chi ha vinto, adesso non lo dice con questi toni, ma fa una premessa legata all'andrangheta, che è un problema globale fondamentale, insomma. E poi dice il candidato, in questo caso Iole Santelli, ex vice sindaco di... Insomma, Marta, sono un po' degli accostamenti che poi vanno giustificati, no? Forse sono stata tranchant per questione di tempo, ma il discorso è che trovare dei candidati sia per il centrodestra che per il centrosinistra è stato complicato. Però ci sono stati poi, no? Alla fine, voglio dire, cioè è stata un'elezione falsata, non so, è una domanda che le faccio. L'impressione che molti, penso, calabresi abbiano è che in realtà la figura del presidente sia un po' in sottotono rispetto al fatto che è il governo della regione che conta, e i pacchetti di preferenze e di voti che girano con grande facilità da uno schieramento all'altro. Quindi tutto sommato la figura è poco rappresentativa. Nell'un caso, appunto, l'onorevole Santelli è uscita all'ultimo momento ed è uscita come espressione di un partito che è ormai poco rappresentativo anche in Calabria, un po' meno. C'è Forza meno Italia, che però ha preso il 12,48%, voglio dire, il Partito Democratico ha preso il 15,16%, cioè 3 punti percentuali in più. È il secondo partito più votato in queste regionali, Forza Italia. Però, insomma, rispetto alla sua... la sua posizione, e la ringrazio come la posizione di tutti gli ascoltatori, era Marta da Cosenza. Noi dobbiamo andare alle informazioni sul traffico, ribadisco per chi è: Leonardo Manera ha la febbre, non c'era venerdì, non c'è oggi, ha detto che farà di tutto per esserci domani. Dai, tifiamo l'entopede. Uno, nessuno, 100 Milan. Allora, sono le 10:38 minuti, siamo qui, mentre parliamo di politica, di attualità. Ci sono anche altre notizie che ci hanno colpito, sapete, in questo contenitore che vi tiene compagnia fino alle 11. Una di queste tematiche è quella dei rider, è una tematica sulla quale io mi sono espresso varie volte, ma ho detto io, Alessandro Milan, come scelta personale, non c'è nulla di illegittimo in questo servizio dei rider che ti portano a casa in genere il cibo a tutte le ore del giorno. Io, da cittadino di Milano, quando vedo girare contromano per andare più in fretta, perché l'algoritmo gli dice che devono andare in fretta, se no non guadagnano abbastanza, non ricevono chiamate. Queste persone, sotto anche la pioggia, il temporale, per portarvi magari un panino a casa, mi viene da pensare: ma porcaccia la miseria, ma cari cittadini, ma se volete un panino, una pizza, scendete sotto casa e andate a comprarvela. Quindi io personalmente non ho mai usufruito e mai usufruirò di questi servizi, che sono assolutamente però dei servizi legittimi per la cittadinanza. Però è una mia scelta personale, sarà anche sbagliata secondo alcuni, ma questo è. Ma perché voglio introdurre l'argomento così? Perché saluto l'avvocato Sergio Bonetti. Buongiorno avvocato. Buongiorno. Lei, Bonetto, perché lei ha difeso fino in Cassazione quei rider che sono un po' considerati la causa pilota, un gruppo di lavoratori che hanno avviato questa causa davanti al Tribunale di Torino dicendo: noi siamo lavoratori subordinati, dobbiamo avere quindi sì, contratti, e la Cassazione è arrivata a stabilire questo principio. Esattamente. Come lo ha dimostrato, avvocato? Beh, in Italia a volte si fa un po' di confusione sui contratti e sulla pratica della prestazione. Sì. Nel nostro sistema quello che conta è come funziona effettivamente la prestazione lavorativa. Se la prestazione lavorativa si svolge sotto il controllo totale all'interno di una struttura organizzata, quello è lavoro dipendente. Mm-hmm. Che poi tu scriva sul contratto che è qualcosa di diverso non cambia nulla, cioè, non conta tanto la lettera, sì, del contratto, cioè non conta, non conta il fatto che non ci sia una sede di lavoro, non ci sia un orario stabilito, non ci siano dei turni. Beh, insomma, no, qualcuno di queste cose c'è. Qualcuno sì, l'orario forse. Anzi, c'è tutto. La sede di lavoro è decisa da chi organizza il lavoro. L'orario è costruito con un sistema abbastanza complicato, ma che comunque implica che i lavoratori diano preventivamente la disponibilità e poi stiano ad aspettare di essere chiamati. E il luogo di lavoro appunto è deciso da chi organizza, i tempi di lavoro sono decisi da chi organizza. E quindi insomma, è lavoro subordinato. Tra l'altro ricordiamo che era stata l'azienda a ricorrere in Cassazione dopo, dopo l'appello, sì, e quindi ha avuto torto, ecco, dal punto di vista giudiziario. In questo senso può essere utile segnalare che nel caso specifico usavano il contratto di collaborazione coordinata e continuativa, ma se la prestazione è fatta in quel modo, vale anche quando li fanno a fattura, come sono alcuni. Altri sono lavori saltuari occasionali. In sostanza non importa quel che si scrive, importa quel che si fa. Dal punto di vista pratico, che cosa cambia per questi lavoratori che lei ha assistito? Per questi lavoratori che io ho assistito cambia il fatto che invece di essere retribuiti in quel modo miserabile sono retribuiti come dei fattorini col contratto della logistica. Quando dice miserabile, cosa vuol dire? Ci può fare? Vuol dire all'epoca 3 euro e mezzo l'ora. 3 euro e mezzo l'ora. Miserabile, vero? Ma insomma, sì, sentire 3 euro e mezzo l'ora mi colpisce abbastanza, ma 3 euro e mezzo l'ora. Adesso questo probabilmente in alcuni casi si va addirittura sotto, probabilmente. Oggi, dopo 2 anni che abbiamo fatto questa gara. No, ma infatti, allora, se questo è il la paga oraria, io mi chiedo, ma lo dico con il profondo... No, ma mi chiedo col profondo rispetto nei confronti di chi appunto fa questi tipi di lavori, perché non trova altro e deve portare a casa anche solo quei 3 ore e mezzo l'ora. Però il discutere di quanto questo incida magari poi sulla salute, sulla salute e anche sull'equilibrio, voglio dire, alla lunga, mi chiedo se davvero sia conveniente proprio dal punto di vista economico alla fine del mese. Tenga presente che tra le altre cose non c'era con questo sistema che era stato adottato, mentre c'è per qualsiasi altro lavoratore, un obbligo di vigilanza sulle condizioni di salute. Per cui, ad esempio, non venivano fatte visite preventive. Un cardiopatico o qualcuno con un problema muscoloscheletrico serio viene messo in bicicletta sotto la neve nelle nostre città per, di notte, e magari poi ha qualche problema. Tutto questo è stato rappresentato come il nuovo che avanzava, perché parliamoci chiaro, il lavoretto nero è sempre esistito. Non è un fenomeno così originale. L'originalità è data dal fatto che è stato organizzato e sistematizzato, appunto, con gli algoritmi, con imprese di grandi dimensioni multinazionali che lo organizzano e si fanno fare i programmini appositi per gestirlo, e che hanno una forza contrattuale anche nei confronti dei ristoranti tale da determinare, da quel che ne sappiamo noi, tra il 25 e il 30% del costo del pasto. Però, avvocato Bonetto, c'è anche da dire che è un servizio che gli utenti chiedono, cioè non si può neanche non si può neanche, come dire, mare con le mani, come si suol dire, cioè le persone persone evolvono e chiedono di poter essere anche più comode, più... Ma guardi che è sempre esistito, come ho detto. Sì. Il contratto del lavoro a chiamata, che sarebbe il sistema regolare di questo tipo di attività, esiste dagli anni 20. Mm-hmm. Viene praticato, lo sanno tutti, per i camerieri, soprattutto d'estate, no? Certo. Che ti mette a disposizione e viene chiamato prevalentemente nei fine settimana. Si può fare con un contratto regolare tutto questo? Non è che non si può. Lei dice che questo sistema, sistema l'ha portato all'esasperazione. Ecco. No, questo sistema l'ha distorto. Perché invece di pagare regolarmente, pagare i contributi, assicurare una vigilanza sanitaria, fai tutto ormai prevalentemente con stranieri, perché ormai il meccanismo è questo, che in molti casi sono esposti anche a ricatto esplicito se tu non continui a funzionare. Provvediamo a comunicare che non lavori più qui e ti perdi il permesso di soggiorno. Ed è lo stesso lavoro che si può fare regolarmente, viene fatto in questa maniera. È questo che non va bene. Certo. Cioè, no, è per questo che lei ha portato avanti, o meglio, i suoi assistiti hanno portato avanti questa battaglia, che dal punto di vista legale è stata vinta. Per concludere, questo cambia qualcosa anche eventualmente per gli altri del settore? Oppure... Diciamo che questa è una sentenza di Cassazione, e con un collegio particolarmente autorevole. Come è noto, in Italia le sentenze valgono solo tra le parti che hanno... Chiaro, è per questo che glielo chiedevo. Cioè, voglio dire, altri rider... È anche noto che la Cassazione dà un'indicazione generale che normalmente viene seguita. Certo. Io auspicherei che queste aziende si mettessero in qualche modo in regola. Con o senza contrattazione, meglio con contrattazione collettiva. Beh, però avvocato, no, giusto, se no poi dopo lo so che mi chiamano e mi scrivono. Non erano in regola secondo la Cassazione per la vicenda che le ha trattato, perché le aziende noi siamo generalmente in regola fino a prova contraria. No, ma infatti, se, tenendo questa posizione, probabilmente si moltiplicheranno le cause. Sì. Ecco, questo volevo dire, che eventualmente... Però io volevo invece dire che il moltiplicarsi delle cause, purtroppo, non è utile, non è utilissimo. Sarebbe auspicabile... Un cambiamento del sistema, senza cause. Un cambiamento di comportamenti, perché è chiaro che puoi dire: io finché non vengo condannato continuo a fare così. Certo. Avvocato Bonetto, io mi devo fermare, intanto la ringrazio, ripeto, avvocato dei rider di Torino che hanno vinto questa causa. Molti mi dicono: sì, 3,50 euro l'ora, però ci sono le mance. Sì, le mance sono, come dire, alla buona grazia di coloro che ricevono poi il cibo. C'è anche chi riceve il cibo e dà 0 centesimi di mancia, non è obbligatoria. Sappiamo che non c'è neanche la cultura anglosassone, o meglio americana, soprattutto, di dare una percentuale cospicua di mancia, per cui poi c'è chi la dà magari anche molto molto cospicua, c'è chi proprio non dà neanche un centesimo, non è obbligatoria. Comunque andiamo al traffico. Uno, nessuno, 100 Milan. Allora, ribadisco per l'ennesima volta, il buon Lentopede tornerà domani. A chi dice che manca, e io confermo, manchi Leonardo, dove sei? Oggi non abbiamo neanche i tuoi contributi da mandare, manchi tantissimo, va bene. Chissà se manca anche a Michela dalla provincia di Livorno, dica di sì, mi manca Manera, dicalo se, anche sì, se non ci crede, tantissimo. Anche se non ci crede, in 20. Mi manca tantissimo, buongiorno. Prego Michela. Buongiorno, intervengo perché ho la presunzione di voler mandare un messaggio a Salvini. Attenzione, sta per mandare un messaggio a Salvini? Lei. Esattamente, provo da tanto tempo via social, ma non. Proviamo, glielo mandiamo in audio, non lo so. Prego, esatto, Michela. Esatto. Messaggio di Michela Salvini. Volevo dire a Salvini, vorrei tanto dire a Salvini, che ha grossi problemi di comunicazione. Avrebbe vinto, secondo me, sicuramente, se non fosse così arrogante. Dovrebbe, secondo me, ancora dico, che rassicurare i suoi sostenitori, gli elettori o i cittadini italiani. Sono convinta che lui capisce benissimo l'umore degli italiani, ma non sa rassicurarli. Ma è, guardi, troppo aggressivo. Questo è il messaggio suo. Certo che, Michela, molti invece sostengono che Salvini, con la cosiddetta la bestia, ne ha sentito parlare sui social, sì, questa macchina della comunicazione che fa certo dell'aggressività, dei toni sempre alti, i suoi punti di forza, siano i motivi per cui invece ha ottenuto così tanto successo. Si ricorda che la Lega era al 3% a livello nazionale quando l'ha presa Salvini? Quindi magari non ha vinto, ma secondo molti invece è proprio sono i segreti del successo di Salvini, questo essere sempre molto coi toni esasperati alti. Lei dice di abbassarli un po'. Io sono di destra e non mi sento rappresentata da lui, avrei bisogno che usasse toni diversi e fosse meno aggressivo. Suonare al citofono è stato uno degli errori più grossi, insieme a un altro paio che ha fatto Salvini, che ci ha fatto cambiare idea. Cioè, guardi, questa del citofono, lei lo dice, ma io purtroppo non posso leggere tanti messaggi, ma sono arrivati tantissimi messaggi su questa storia del citofono. Quindi evidentemente siete in molti, anche lei la pensa così. Cioè, quello è stato un errore, secondo lei? Ha un po' varcato la soglia. L'ha detto lui stesso, per la verità, Salvini. Innanzitutto dovrebbe rassicurarci. Mm. Cioè, quando parla di immigrazione, rimpatrio o problema legato a questo fenomeno, sì, è vero, assolutamente, però dovrebbe usare toni diversi, ripeto troppe volte questa frase, ma dovrebbe rassicurare gli italiani che non è il secondo Hitler, che non è non è un secondo Hitler. Assolutamente no, però gli italiani sono preoccupati da questo, cioè si viene divisi in due parti. Sì, lei dice così. Razzisti o buonisti a quelli. Quindi Salvini abbassa i toni, questo è il messaggio di Michela. Ce la facciamo anche Valentino da Terni, abbiamo 30 secondi, Valentino, gentilmente. Pronto, buongiorno. Prego. Vai Valentino. Senta, io sono elettore del PD. Sì. Naturalmente sono contento che Bonaccini abbia vinto, però io sono critico nei confronti del mio partito, perché deve cambiare marcia. E secondo me, per cambiare marcia al congresso, dovrebbe eleggere un altro segretario, non diciamo Zingaretti. Un Sala, lei vuole Sala, sì. Non glielo diamo, sindaco di Milano. scherzo Valentino, lei vorrebbe insomma un cambiamento di passo, come dire, l'ha sfangata stavolta, ma il PD deve cambiare passo. Ma insomma, Zingaretti ha detto vogliamo non un nuovo partito, ma un partito nuovo, vedremo. Valentino da Terni chiede proprio un nuovo segretario del partito. Va bene, io con Valentino da Terni vi saluto, ci fermiamo qui anche per oggi, ci troviamo domani alla solita ora, voi fate i bravi se potete. Uno, nessuno, 100.000.